Allora buonasera a tutte e a tutti. La vostra radiolina è sempre sintonizzata sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. Come te sbagli, giovedì pomeriggio c'è sta Attica Blues. Allora oggi riprenderemo il discorso degli incontri tra musicisti diversi uniti da dei brani musicali. Allora, oggi ci focalizzeremo sugli incontri soprattutto dei jazzisti italiani, perché ne abbiamo veramente molti e molti molto validi, e incontri soprattutto fra jazzisti italiani, ma anche con jazzisti stranieri o musicisti comunque che non vengono proprio dal nostro paese. Quindi cominciamo con? Iniziamo con quello che forse oggi è il nostro più autorevole jazzista, ossia il trombettista sardo Paolo Fresu, qui in duo, che è poi la sua dimensione ideale, dove la sua poetica esce meglio, con il pianista Uri Kane, il pianista di Filadelfia. Questo che ci andiamo a sentire è un pezzo scritto da Handel nei primi del 700, che è Lascia che io pianga. Decisamente classico come brano. Per questa sublime interpretazione. Thank you. E allora è una collaborazione che è iniziata nel 2006 con un primo album che si chiamava Finks, e tutte e due usciti per la Blue Note. Questo invece è del 2009, che è in alcuni brani accompagnato dall'Alborada Quartet, che è un quartetto di soli archi, e quindi sì, le atmosfere si fanno ancora più sublimi. Allora, nello stile degli incontri, il brano dopo è sempre di uno dei due musicisti del brano prima. Questo è di nuovo Paolo Fresu, questa volta con Omar Sosa. L'abbiamo già ascoltato varie volte, questa collaborazione. Questo è un album del 2012, è uscito proprio per l'etichetta di Fresu, la Tuk Records, però è veramente una meraviglia, quindi lo riproponiamo, e questo è il nome che dà il titolo anche all'album stesso, e si chiama Alma. Thank you. E allora Paolo Fresu e Omar Sosa, che sono stati qui in concerto alla Sapienza i primi di novembre, e adesso ce l'ascoltiamo invece in coppia con Daniele Di Bonaventura, e loro saranno in concerto questa domenica ai Giardini del Quirinale, tra l'altro un concerto gratuito, bisogna solo prenotarsi, quindi magari è una bella occasione. Questo è il pezzo che ci andiamo a sentire, Quando Men Vo, che fu una romanza, un valzer scritto da Puccini ed era contenuto nella Bohème. E allora, questo pezzo era chiuso in un album uscito proprio quest'estate, nel 2015, In Maggiore si chiama, è uscito proprio per l'ECM di Manfred Eicher, e tra l'altro è stato tratto anche un DVD sulla registrazione, perché loro sono andati a incidere questo brano a Lugano negli studi dell'ECM, e quindi c'è tutto un viaggio dietro. È veramente un consiglio, è un concerto che vi consiglio di vedere. Io l'ho visti adesso a Umbria Jazz e sono stati veramente gli assoluti protagonisti di questa edizione. Allora continuiamo ancora con Paolo Fresu, un altro album suo, insieme questa volta a Gianluca Petrella. Sì, qui lui fa più che altro l'ospite nel gruppo di Petrella, ed è un concerto registrato il 12 aprile del 2007 proprio alla Casa del Jazz qui a Roma, e questo che ci sentiamo è Flexible, un brano scritto proprio da Gianluca Petrella. Saliamo un po' di ritmo. Thank you. Particolarissimo l'effetto sulla tromba di Fresu. È il pezzo che diventa improvvisamente Latin dalle origini Kansas City dell'intro, invece qui diventa Latin. E allora rimaniamo con Gianluca Petrella qui in duo con Giovanni Guidi al piano in un progetto chiamato Substar. Ora ci ascoltiamo due pezzi. Il primo, You Ain't Gonna Know Me, con il sax baritono di David Brutti, e poi in duo ho una splendida Over the Rainbow. Durava solamente 1:22 dopo il brano di 9 minuti che abbiamo sentito prima, quindi ci andiamo ad ascoltare Over the Rainbow. Thank you. E adesso proseguiamo ancora con Gianluca Petrella. Questa volta lui è ospite del quartetto di Enrico Rava in un disco uscito per l'ECM proprio nel 2015 e votato dalla critica come miglior disco italiano di jazz. E questo che ci andiamo a sentire è F Express. Thank you. E adesso continuiamo con Enrico Rava, che tra l'altro è un grosso scopritore di talenti, e nel 2000 lui convinse Stefano Bollani, che in realtà era un turnista di musica pop, a buttarsi nella musica jazz. Questo che adesso ci ascoltiamo è Sunbay, che è un brano ancora per l'ECM uscito nel 2006. Qui Rava invece è ospite di un altro decano del jazz italiano, un intellettuale del free jazz, ossia Gianluigi Trovesi. Questa è proprio una sua composizione, si chiama Campanello Cammellato ed è stata registrata il 31 gennaio del 2007. E allora anche per questo giovedì Attica Blues volge al termine, giusto il tempo di ascoltarci un ultimo brano. Eh sì, un ultimo brano che è poi una raccolta di incontri, perché quella che ci andiamo a sentire è l'Italian Instable Orchestra, ma che raggruppava i migliori jazzisti italiani del movimento free jazz. Ci abbiamo Giancarlo Schiaffini al trombone, Carlos Acrisdato al baritono, lo stesso Gianluigi Trovesi al sax contralto, Tiziano Tononi alla batteria, Pino Minafra alla tromba, insomma ci abbiamo un po' di tutto. Questa è una registrazione al London Jazz Festival, perché poi, come spesso accade, molto più all'estero che in Italia vengono apprezzati certi musicisti, e quella che ci andiamo a sentire è il brano che conclude questo concerto, che si chiama Vanu Vatema. Quasi una ventina di musicisti sul palco. Italian Instable Orchestra.